Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quel giorno capii che fare la maratona non è uno scherzo, o quantomeno non si può improvvisare. E poi un signore di ben 62 anni mi disse: Daniele, stai tranquillo, la maratona la farai assieme a me e ti porterò fino al traguardo. Mi chiamo Daniele, sono nato e vivo in Versilia, ho studiato ingegneria, tuttora faccio questo lavoro e mi sposto frequentemente. Se c'è, come c'è, tutti i giorni, una parola chiave della puntata, la parola chiave di oggi è traguardo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:07, marzo sta per finire come se fosse dicembre e noi quindi guardiamo un po' più in là, cerchiamo di capire qual è il traguardo che vogliamo raggiungere, ma soprattutto, grazie alla storia di Daniele, oggi parliamo del primo vero traguardo della vostra vita. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, cioè i messaggini di testo, e non per telefonare, perché altrimenti risponde una segreteria telefonica che nessuno ascolterà mai, perché non abbiamo accesso alla segreteria telefonica. Gli sms, tra l'altro, così per dirlo, un pochettino di trasparenza, non ci arrivano su un cellulare in studio, ci arrivano su uno schermo, quindi ripeto, non possiamo richiamarvi dallo schermo, non possiamo rispondervi ai messaggi, possiamo solo leggerli. 349-238-6666. Una piccola storia, una storia che dica qualcosa di voi, cioè un racconto che vi è realmente accaduto, un episodio che vi è realmente accaduto e che racconti la vostra storia. Questa è l'essenza di Voi Siete Qui, questo programma che ogni giorno racconta una storia diversa perché è raccontata da una persona diversa e ogni storia di solito ha un cuore, ha una specie di succo, come si diceva alle elementari. Sì, ma qual è, perlomeno alle mie elementari, sì, ma qual è il succo della questione? Il succo della questione di oggi è che ognuno di noi nell'arco della sua vita, da giovane o da meno giovane, a un certo punto ha ottenuto una cosa, che fosse grande o piccola, che fosse importante o non lo fosse, che per noi è stato un enorme traguardo, un po' come Federico che scrive: avevo 13 anni, lo fa sul profilo Facebook del programma, portiere scarsino della squadra di calcio, scarsina della mia città. Spesso additato come il colpevole delle sconfitte dai compagni. È orribile, cioè già sei in porta, fai un mestiere orribile in più, magari a mezza bocca. Sì, certo che se qualcuno li parasse, sti tiri che arrivano in porta ogni tanto. Esatto, spesso additato come colpevole. In occasione dell'ultimo torneo sono stato eletto dai compagni stessi capitano. Al torneo finimmo terzi e io vinsi il premio come miglior portiere. Questo è il primo traguardo di Federico. 349-238-6666. Ripeto, è un traguardo inconfutabile, eh? Cioè una roba che non è che a voi è sembrato di, ma che tutti quanti l'hanno visto, e quindi si può raccontare e toccare con mano. Guglielmo: arrivare ubriaco di gioia e dolori dappertutto al cartello Santiago di Compostela dopo 800 km di passione. Vincenzo: a 16 anni ho vinto i campionati regionali di taekwondo della mia categoria. Un gran bel traguardo. E te credo, il taekwondo è quello con i bastoni? No? Quello è il kendo, giusto? Il taekwondo è anche disciplina olimpica, il taekwondo. Abbiamo vinto una medaglia nella disciplina olimpica adesso, anche di recente, no? Il tizio piccolino. È un po' roba per piccolini il taekwondo. Niente, quando comincio a dire robe che non so, proprio stai proprio H, perché non c'è nessuno di là. Rudy, anche tu fammi un segno tipo no, non entrare in quel territorio. Donatella: classificata terza a una competizione studentesca di lancio del peso senza avere mai provato ad allenarmi. Fantastico, il primo vero traguardo della vostra vita oggi qui a Voi Siete Qui. 349-238-6666. Il primo traguardo della vita di Daniele è stato questo qui. La storia che voglio raccontare risale ormai all'anno 2003, precisamente il 23 di marzo. In quel giorno il sole splendeva come non mai, la temperatura era sopra la media stagionale e io mi apprestavo ad intraprendere quella che per me sarebbe stata la prima scommessa su me stesso. Un'avventura nata per caso, ma partiamo con ordine. Nell'estate del 2002, l'anno prima, lavoravo presso un centro sportivo di tennis come palleggiatore, o, come di norma viene chiamato nella maggior parte dei posti, sparring partner. Durante le ore di buco mi capitava di andare a correre con la persona che gestiva la palestra del centro sportivo.

in una delle... Guarda, l'azzardo? L'azzardo. Secondo me sono in cima alla Torre di Pisa. Traguardo. Sostantivo maschile. Punto di arrivo di una corsa, contrassegnato da speciali segnalazioni poste attraverso la linea d'arrivo, presso il quale stanno i giudici di arrivo. Strumento costituito in genere da due mire che permettono all'osservatore di allineare lo sguardo all'oggetto, cioè di mirarlo. È impiegato per il rilevamento di posizioni o per il puntamento di un'arma. In aeronautica, traguardo di puntamento, congegno montato a bordo degli aerei da bombardamento per il puntamento nello sgancio delle bombe. Etimo derivato di traguardare, data secolo XVI. Avete appena sentito come un dittongo possa rovinare la giornata di uno speaker radiofonico. Grazie ancora ad Alessandra De Luca, che speakera come solo lei sa fare. Solo lei sa fare il dizionario di Voi Siete Qui. Ogni giorno c'è una parola, come vi dicevo in apertura di programma, e ogni giorno cerchiamo di raccontarla, darle un significato. Dicevo, secondo me sono sulla Torre di Pisa nella foto. Andate a vederla sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Perché secondo me quello che si vede è Campo dei Mirai. Oh, ho toccato qualcosa, è partita la foto. Ok, no, sto tablet qui c'ha qualche problema ogni tanto. Secondo me è Campo dei Miracoli. Ma anche un po' chi se ne frega, rispondiamo ad alcune richieste. Quando si parla di maratona, chiaramente parte il trip dei maratoneti. Ogni tanto apriamo il faldone corsa, tiriamo fuori un racconto che ha a che fare con la corsa. Ed eccoci qua. Lucia scrive: Daniele, con che tempo l'hai chiusa? Ho ricevuto una telefonata e non ho ascoltato il finale. Non so quanto sia importante. 3 ore e 58 minuti per l'esattezza. Diceva che era di più, però il tempo effettivo è 3 ore e 58, perché credo perché loro partono dopo, no? Per cui fa ridere sta roba che e tu aspetti dopo 20 minuti, ok ragazzi, si parte. Appunto, a proposito di maratoneti che perdono la testa, Maria Teresa scrive: al 33esimo chilometro o schiatti o superata la crisi di rito, hai vinto sulla stanchezza. E poi ancora, a proposito di traguardo, il primo traguardo della vita. 20 anni fa, scrive Chicco, 2 mesi di corso per far parte della Folgore. Missione compiuta. In seconda media arrivo secondo. Questo è uno dei miei preferiti, Luigi. In seconda media arrivo secondo al concorso della scuola con un disegno di protesta contro l'inquinamento, anno 1974. Io partecipai a un concorso fotografico insieme al mio amico Davide Perini di Romentino. Facciamo la prima media e il concorso era qualcosa che avesse a che fare con lo sport, e noi facciamo delle foto proprio di polemica sul fatto che mancavano degli spazi nel paese per giocare, per fare sport. E mi ricordo queste foto orribili nel mio garage, in cui io tenevo in mano una palla da basket e facevo finta di buttarla nel cesto dell'immondizia, no? Che voleva dire siamo obbligati a giocare a basket. Già c'era già un sacco di creatività nell'aria. Ma la cosa che più mi dispiace fu che io non vinsi e Davide sì, con un'altra foto invece, sempre scattata in quel garage lì, che è il garage di casa dei miei genitori a Romentino. Avevo 20 anni e vinsi la mia prima corsa in auto in Formula Monza. Esiste una Formula Monza? Vabbè. Comunque, era in auto, immagino fosse a Monza. Detto facile. Partito ultimo sotto la pioggia, superai tutti e vinsi. Il primo traguardo, la maturità dopo essere partito per il servizio civile. Andrea, però eri un po' in ritardo. Cioè, nel senso che se parti per il servizio civile hai più almeno di 19 anni, giusto? Devi essere maggiore. Quindi forse avevi un anno, ti ballava uno o due anni. E poi Massimo che scrive... Alle medie avevo 4 in musica, oggi sono un felice contrabbassista. Visto che rimaniamo sul tema della corsa, l'avevo già letto una volta, ma è un libro magnifico che parla di corsa, ma non solo, infatti anche uno che non corre come me l'ha letto con piacere. L'autore è questo scrittore giapponese che si chiama Murakami Haruki. Il libro si chiama L'arte di correre. Lui in sostanza è un romanziere notissimo, che però da credo 20-25 anni corre, fa maratone. Non è che corre, fa proprio le maratone, lui si considera un maratoneta. In questo piccolo pezzo racconta come sia importante la maratona per la sua vita, come gli abbia insegnato fare la maratona per fare anche altro, ma soprattutto come raggiungere un traguardo sia una cosa che va di grado in grado. L'inverno prossimo correrò una maratona da qualche parte del mondo e nell'estate seguente parteciperò a qualche altra gara di triathlon. Intanto trascorrono le stagioni e gli anni. e ogni anno che passa scrivo un libro. Affronto i compiti che ho davanti e li porto a compimento uno ad uno, fino ad esaurimento delle forze. Concentro la mia attenzione su ogni singolo passo, ma al tempo stesso cerco di avere una visione globale e di guardare lontano. Perché si dica quel che si vuole, ma io sono un maratoneta. Come vengano giudicati il tempo che ottengo in gara e il mio posto in graduatoria, come venga considerato il mio stile, è di secondaria importanza. Ciò che conta, per me, per il corridore che sono, è tagliare un traguardo dopo l'altro con le mie gambe. Usare tutte le forze che sono necessarie, sopportare tutto ciò che devo e alla fine essere contento di me. Imparare qualcosa di concreto, piccolo finché si vuole, ma concreto, dagli sbagli che faccio e dalla gioia che provo. E gara dopo gara, anno dopo anno, arrivare in un luogo che mi soddisfi. O almeno andarci vicino, sì, probabilmente questo modo di esprimermi è più giusto. Se mai ci sarà un epitaffio sulla mia tomba, e se posso sceglierlo io, vorrei che venissero scolpite queste parole. Murakami Haruki, scrittore e maratoneta. Se non altro, fino alla fine, non ha camminato. I was in a functional way. I have my brown sound jacket, queen of cock collect on my arm. She was my calmer down. My good luck charm. She was my good luck. Here it come running. Here it come running again. Ah, trouble come running. Here it come running again. Ah, running again. Allora, chiedo scuse innanzitutto a tutti i pisani, ma soprattutto a Daniele e a Romina, sua moglie, che mi ha scritto sul profilo Facebook del programma 5 minuti fa. Ma che torre di Pisa? Siamo a Budapest. Firmato Romina, la moglie di Daniele. 349-238-6666, anche Luca da Pisa diceva no, non sono a Pisa. C'è qualcuno che scrive: a 35 anni il mio primo ginocchio a terra in pista e la saponetta consumata. Giorgio, questa è roba da motociclisti. Prima ci venivano in mente nomi di corridori che, insomma, a gente della mia generazione balzano in testa come uno squarcio sul passato, tipo Orlando Pizzolato. Pizzolato, Margherita mi diceva che ha scoperto, cioè ha scoperto, ha trovato adesso, fa il personal trainer, cioè il personal trainer, fa il running trainer, cioè è uno che è come il 62enne di Daniele, dice vieni con me, ti faccio fare io la maratona, però immagino che lo paghi. E poi l'altro chi era? Bordin, Gelindo Bordin. Gelindo Bordin, non sappiamo nulla, ma io mi ricordo un corridore coi baffi. Ma un corridore che. Ma che era tipo. Forse era un velocista. Cova. Armando Cova. Bruno Cova. Alberto Cova. No, ragazzi, Alberto, Bruno. Alberto Cova. No, Gilberto Cova. Niente, ragazzi, non ce la possiamo fare. E mancano 30 secondi alla fine. Quindi, no, cioè, Tiziano mi dice che ha vinto i mondiali di Helsinki, ma non mi ricordo se Cova si chiamava Bruno Alberto. Alberto Cova. Adesso guardate, lo scriviamo su Twitter. Se, no, non è Sebastiano Cova, con i barisoni che c'erano un quarto d'ora. Alberto Cova. Ma faceva altro, però, giusto, Tiziano? Faceva, era un veloci. 500 metri. No, 5. Niente. Scusa mamma, ti chiedo scusa, giuro, non lo faccio più. Grazie a Tiziano Bonini, a Fabio Cantatore e Margherita Hina. Grazie soprattutto a Daniele. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso. Sono Giancarlo da Trieste. La storia di domani è la mia e parla di un viaggio avventuroso a Vienna. Questa è la mia storia e io sono qui.